Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sui campi e sulle strade, silenziosa e lieve, volteggiando, la neve cade. Danza la falda bianca nell'ampio ciel scherzosa, poi sul terren si posa stanca. In mille immote forme, sui tetti e sui camini, sui cippi e nei giardini dorme. Tutto d'intorno è pace, chiuso in oblio profondo, indifferente il mondo tace. Con questa splendida poesia, Ada Negri, la grande poetessa lodigiana della prima metà del secolo scorso, ci dice tutto quanto serve per esprimere il nostro senso di stupore di fronte a un fenomeno fisico di straordinaria bellezza, la neve. Oggi a Destini Incrociati parliamo di uomini che della neve non hanno fatto poesia, ma un sogno di gloria. Di chi calcandola con forza, agilità e coraggio ha raggiunto le vette di uno sport bellissimo, lo sci alpino. I primi indizi dell'esistenza dello sci si riscontrano su alcune antichissime pitture rupestri norvegesi di quasi 5.000 anni fa, ma lo sci sportivo moderno prende il via con la quarta edizione delle Olimpiadi invernali di Garmisch-Partenkirchen nel 1936. Esclusi i maestri di sci dalla competizione, la gara di sci alpino, organizzata in combinata, discesa libera e slalom, fu vinta dal tedesco Franz Fnur in un'Olimpiade dominata guarda caso dalla Norvegia. Nel medagliere del 36 seguono Germania, Svezia, Finlandia, Svizzera e Austria. L'Italia non porta atleti, vive di pallone. E infatti, nello stesso anno alle Olimpiadi estive di Berlino, vince l'oro nel calcio in finale contro l'Austria. Maestro tira il volo e segna. Così l'Italia, battendo l'Austria per 2-1, vinse le Olimpiadi di calcio. Dopo l'interruzione delle attività sportive internazionali a causa del conflitto mondiale, i giochi invernali riappaiono a St. Moritz in Svizzera nel 1948 e finalmente l'Italia compare nel tabellone finale con una medaglia d'oro nello skeleton, la strana e velocissima slitta dotata di pattini grazie al valtellinese Nino Bibbia, mentre lo sci alpino è ancora assoluto territorio di conquista dei paesi nordici. Ma proprio a casa loro, in Norvegia, alle Olimpiadi di Oslo del 1952, un italiano vince la prima medaglia d'oro di sci alpino nella disciplina più emozionante, la discesa libera. È il leggendario Zeno Colò, l'atleta toscano punto di riferimento e idolo per la generazione di sciatori che lo seguiranno nei due decenni successivi. Di lui ne parla il regista Fosco Maraini in un appassionato documentario del 1952. Oggi, per esempio, lungo tutta la strada si stanno facendo straordinari preparativi di festa. Torna infatti a casa una betonese, vincitore delle Olimpiadi. Torna Zeno Colò, dopo aver battuto sulle nevi del nord, lui montanaro del sud, tutti i campioni del nord. Mentre Zeno Colò vince la prima medaglia d'oro per l'Italia nello sci alpino a Oslo nel 52, un bambino, nato in un piccolo paese di montagna, nello stesso mese di febbraio spegne la sua prima candelina. Il paese dove nasce, Trafoi, nell'alta Val Venosta, in quel periodo è naturalmente immerso nella neve. E la neve sarà il destino che intreccerà tutta la vita che quel pargoletto avrà davanti a sé in un binomio indissolubile. Eccolo qui! Gustav! Da Trafoi! Quando si nasce a 1500 metri sopra il livello del mare, in un piccolo paese alle pendici delle maestose seraccate dello Stelvio, si impara a sciare forse ancor prima che a camminare. Il piccolo Gustavo, figlio di un maestro di sci, cresce da montanaro puro sangue, a cui piace più ascoltare che parlare, leale e corretto nella vita e nello sport, con quel modo di esprimersi a monosillabi e trascinando le parole tra la gola e la lingua in una sorta di italiano-tedesco arrotati l'uno sull'altro. Ma, sì, ja, forse. Queste sono le risposte che fin dagli inizi di una carriera che sarà leggendaria fornisce ai giornalisti al termine delle gare, lasciandolo stupefatto quando il giorno dopo legge pagine intere di giornale dove si cerca di interpretarlo. Anche il suo nome non si pronuncia facilmente. C'è chi aggiunge e toglie una lettera, chi sbaglia la pronuncia, ma la sostanza non cambia. Lui è Gustav Töni. Gustav Töni. Cosa hai detto? Cosa ho detto? Che mi vuoi bene? È la prima volta che me lo dici così, dritto dritto. Scusa, mi devo essere distratto. Il silenzioso Gustav, che nel breve spezzone che abbiamo ascoltato, il regista Duccio Tessari prova a far recitare al fianco di Antonella Interlenghi nel film Un centesimo di secondo, ma con risultati che non possono che strapparci un sorriso, si mette presto in luce e a soli 17 anni è convocato in nazionale. Mario Cotelli, mitico CT della Valanga Azzurra, ricorda quei tempi, lontanissimi dalle esasperazioni del mondo dello sport professionistico di oggi. Ai tempi non c'erano contratti di sponsorizzazione tecnica. Una ditta dava gratis i suoi sci a uno che gli faceva pubblicità usandoli. La Persenico Spalding aveva un uomo, Egidio Pasini, che portava gli attrezzi nuovi al Passo dello Stelvio, dove c'è neve tutto l'anno, per farli testare ai maestri. E glieli regalava. Uno di loro era il papà di Gustav, il quale quindi si ritrovò già pronti in casa. Franco Puzzolò della montagna, la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci sci. Franco Puzzolò della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio, con i piedi un paio, con i piedi un paio di sci sci sci sci sci sci. I miti sciistici di Gustav a quei tempi sono Jean-Claude Quilly, il grande discesista francese, e soprattutto Tony Seiler, il lampo di Kitzbühel, primo sciatore a vincere tutte e tre le gare di sci alpino in un'unica Olimpiade a Cortina nel 1956. Ma la televisione a quei tempi di gare non ne fa vedere, e lui si arrangia con le riviste austriache procurate da suo padre, che mostrano in fotografia la grande classe, lo stile perfetto dell'austriaco. Lui guarda, impara, imita e soprattutto scia. Nel 1964, a 13 anni, vince la sua prima gara importante, al Bondone, e il trofeo Topolino, ricordo al quale rimane affezionato tutta la vita, nonostante i podi ben più importanti che seguiranno. Ma lui è fatto così, riservato, timido, anche se sentimentale. Eppure la testa è da tedesco, la volontà è di ferro, le gambe d'acciaio. Passano solo 5 anni da quella gara di giovani promesse. Poi, nel 1969, l'Italia sportiva impara a conoscere quel diciottenne timido e taciturno di Trafoi. L'11 dicembre in Val d'Isère, al suo debutto in Coppa del Mondo, tra le porte larghe del gigante, mette in fila tutto il gota dello sci e conquista il primo della sua infinita serie di trofei. Ma Sapporo è sicuramente un grandissimo ricordo, che nelle mie prime Olimpiadi era un sogno, come l'ha detto già Tony Seiler, che sognavo sempre di partecipare a un'Olimpiadi, e è stata, diciamo, una grandissima avventura. Agli inizi degli anni 70, Töni è stabilmente inserito nel gruppo azzurro diretto da Mario Cotelli. Vince alcune gare del circuito mondiale tra il 69 e il 70. Poi, nel 71, conquista la sua prima Coppa del Mondo a soli 21 anni. Si ripete nel 72, anno nel quale conquista anche la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Sapporo, in Giappone, nello slalom gigante e l'argento nello speciale. Nel 73, a 23 anni, si presenta alla sua sesta Coppa del Mondo come punta di diamante di una squadra destinata a entrare nella storia dello sport italiano, come ci ricorda il grande compagno di squadra di Gustav, Pierino Gross. Quel giorno a Berchtesgaden in Germania, sul podio siamo arrivati in 5, quindi era una cosa veramente incredibile per quei tempi, ma nessuna squadra lo aveva fatto e 5 italiani erano davanti. Primo Piero Grosso appunto, poi Gustavo Töni, Erwin Stricker, Schmalz, Helmut Schmalz e Tino Pietrogiovanna. Quindi quel giorno, insomma, intorno alla Valanga Azzurra è nato davvero, si può dire, non movimento, forse una parola un po' grossa, però è nato veramente un periodo incredibile dello sci italiano. Il 7 gennaio 1974, 5 italiani occupano i primi 5 posti del gigante di Coppa del Mondo a Berchtesgaden, in quell'angolo della Baviera che si insinua nel Salisburghese, dove Hitler aveva il suo famoso nido d'aquila, il rifugio estivo sul picco di uno strapiombo. Il primo posto è di Piero Gross, davanti a Gustav Töni, Erwin Stricker, Helmut Schmalzl e Tino Pietrogiovanna. Un evento storico e ad oggi mai ripetuto. I giornali italiani il giorno dopo parlano entusiasticamente di squadra travolgente come una valanga azzurra. Il mito di Gustav, Tony Seiler, al tempo divenuto CT austriaco, mani nei capelli e quasi piangendo, parla alla stampa in questo modo. Dovremmo rivedere tutto, allenarci giorno e notte, perché questi italiani fanno davvero paura. Un'impresa incredibile, della quale praticamente non esiste alcun documento visivo. Non c'è la televisione, perché la pista è talmente chiusa che i ponti necessari per la produzione dell'Eurovisione sarebbero costati troppo e la TV tedesca preferisce rinunciare. E neppure i fotografi riescono a immortalare quella straordinaria cinquina. Non c'è la tecnologia digitale, le foto vanno sviluppate e teletrasmesse. È già una grande notizia avere tre italiani sul podio e pochi riescono a tornare in pista per fotografare il quarto, quello Schmalz, l'arrabbiato per avere perso una posizione. Che grinta quest'Italia che a casa dei tedeschi vince tutto e fa suo quel luogo che da allora è ribattezzato il nido degli italiani. Testimonianze o meno, la valanga è in moto e Gustav Töni ne rappresenta il fronte più avanzato. A metà degli anni 70, Gustav Töni è ormai diventato uno degli sportivi italiani più amati e vincenti. Eppure non ha perso nulla di quell'eterna espressione di bravo ragazzo, quell'aroma genuino di latte appena munto e di fieno appena tagliato che si porta dietro da quando per la prima volta, agli inizi degli anni 70, appare dopo una vittoria sugli schermi televisivi, conquistando l'affetto e la simpatia degli italiani, che con la sua immagine negli occhi iniziano a riversarsi in massa sulle piste da sci di tutto l'arco alpino. Lo sci inizia a diventare un fenomeno di massa. Gli impianti si ammodernano e le attrezzature diventano sempre più sofisticate. Anche la televisione, grazie agli sponsor sempre più numerosi, accorsi ad affiancare le imprese dei valanghisti azzurri, è ormai sempre più presente sulle piste di quello che viene definito il circo bianco. L'evoluzione tecnica dei materiali e delle piste permette agli atleti velocità ed evoluzioni impensabili solo un decennio prima, così come l'introduzione dei cronometri di precisione rileva al millesimo di secondo le differenze ormai minime tra gli atleti giunti al traguardo. Ed è proprio davanti a una televisione che Alberto, un bambino bolognese di soli 8 anni, ma già appassionato di sci, segue spesso assieme al padre Franco e al fratellino Marco le gesta della valanga azzurra. Fa un tifo dannato, ma fatica a capire come molti dei nomi di quegli italiani che sente nominare abbiano una pronuncia così dura e che nelle interviste il loro italiano suoni come quello che al mare parlano i tedeschi in vacanza sull'Adriatico. Papà Franco prova a spiegargli che vengono quasi tutti dalle aspre valli altotesine, ai confini con l'Austria, ma sono italiani a tutti gli effetti. Alberto resta perplesso. Lui scia sull'Appennino, dove si parla il loro dialetto e un italiano corretto, ma sono comunque i suoi eroi, gli atleti che un giorno vorrebbe emulare, in particolare quel Töni, che parla pochissimo e quando lo fa mette la P al posto della B. Alberto invece non sta mai zitto, non sta mai fermo, è pieno di energia, ma è solo questione di tempo. Presto il suo talento esploderà sulle piste da sci di tutto il mondo, come una bomba bianca, il soprannome con cui sarà conosciuto ovunque. Il suo nome è Alberto Tomba. Alberto Tomba. Infatti qua no, non hanno messo Tomba, adesso il bolognese della B beffa o vince sulla montagnetta. Non hanno usato il cognome, dava fastidio all'inizio, non ci credevano, erano abituati ad altri cognomi. Certo. No? In attesa che Alberto la bomba deflagri nel mondo dello sci alpino, Gustav Töni, il riservato e timido campione altoatesino, prosegue senza sosta nella sua straordinaria carriera. A dimostrazione della sua forza e del suo immenso talento, Töni, il 18 gennaio 1975, lancia una sfida mozzafiato al più grande discesista di libera di tutti i tempi, Franz Klammer, detto il Kaiser. Ecco come ne parla lo stesso Klammer in un'intervista. Scoprii che le vere insidie non stavano sulla temutissima pista di Kitzbühel. Il rischio più serio, con tanto di tuffo al cuore, l'ho corso al parterre, quando ormai avevo svestito la tuta, slacciato gli scarponi ed ero diventato un semplice spettatore. E mai avrei immaginato che in discesa sarebbe stato Gustavo, slalomista e non liberista, a farmi correre quel brivido. La Strafe, la pista di discesa libera più spettacolare, più difficile e più temuta di tutto il circo bianco. Spigoli marcati, che a forte velocità danno luogo a salti mozzafiato, ripidi pendii, tratti in diagonale, passaggi stretti, curve, stradine di puro scorrimento, innumerevoli dossi che rendono la corsa spettacolare e persino un breve passaggio in salita. E infine, il salto della Mausefalle, una trappola per topi in cui gli sciatori paiono cadere durante la ripida discesa verso valle. La Streif negli anni 70 è il regno di Klammer, l'austriaco vincitore di un'Olimpiade e di 5 coppe del mondo di discesa libera. Gustav è un atleta fisicamente opposto al colosso Klammer, più piccolo, leggero, estremamente agile. La sua specialità è serpeggiare stretto tra le porte dello speciale e del gigante. Ma quel giorno di gelido inverno, il 18 gennaio, al cancelletto di partenza c'è anche lui. Franz è già sceso, naturalmente con il miglior tempo, 2 minuti 3 secondi e 22 centesimi, nuovo record della pista. E i più forti sono alle sue spalle. Gustav parte rapido, pennella curve, ma è all'uscita della Steinlag che compie il suo capolavoro, interpretandola alla grande e uscendone con grande velocità. Il parterre di fine pista, assiepato da 30.000 persone, per la maggior parte austriache, ammutolisce di colpo. Tony non molla fino alla fine. Klammer non crede ai suoi occhi. Gustav chiude in 2 minuti 3 secondi e 23 centesimi. Un centesimo, il nulla, meno di un cristallo di neve. È secondo, ma è come se avesse vinto. Tutti gli occhi del mondo sono su di lui. Un non discesista che ha mostrato coraggio e capacità sovraumane. Gustavo Tony entra definitivamente nella leggenda dello sport. A destini incrociati, uno schivo sciatore altoatesino di nome Gustav Tony, a metà degli anni 70 capitano della mitica Valanga Azzurra, la squadra italiana di sci dai migliori risultati di sempre, e una futura promessa dello stesso sport, destinata a raccoglierne l'eredità, tra non molto incroceranno le loro traiettorie nelle piste e nella vita. Tomba la bomba ha infatti acceso la miccia del suo enorme talento, che non tarderà a esplodere sulle piste di mezzo mondo. Alberto Tomba nasce a Bologna il 19 dicembre 1966 e da buon sagittario, come ama definirsi, fin dall'infanzia mostra le caratteristiche principali del suo segno. Combattivo, energico, vitale, uno che non molla mai. Ma anche un testardo, un indipendente e tutto sommato un egocentrico. Ha solo 4 anni quando passa dalle spalle del papà alle sue prime discese in autonomia, prima buttando acqua ghiacciata di notte sui dossetti in giardino insieme al fratello per trovarli ghiacciati la mattina e fare le prime acrobazie, e poi approfittando delle colline dietro casa a Castel de Britti, una frazione collinare di San Lazzaro di Savena vicino a Bologna, dopo qualche nevicata abbondante. Sì, partivamo da lì su, preso poco, dove c'era una capanna che adesso non c'è più. Quindi da lì fino lì erano 300-400 metri. Poi a 7 anni la prima svolta. Alberto viene affidato alle cure di un caro amico di famiglia, il maestro Roberto Siorpaes a Cortina, il quale vede in lui le prime potenzialità. Lo imposta tecnicamente e lo avvia alle prime gare ufficiali sugli Appennini emiliani. Il giovane Alberto non tarda a farsi notare. Vince le prime gare con punteggio valido per la federazione e nei primi anni 80 gareggia già con la squadra C1 italiana. Nel 1984 partecipa ai mondiali juniores di Sugarloaf, dove arriva quarto e viene promosso in squadra B. È forte, ma ancora un'anonima promessa. È alla fine di quello stesso anno che Alberto, 4 giorni dopo aver compiuto il suo 18° compleanno, all'improvviso fa parlare di sé. L'evento è dimostrativo. Il parallelo di Natale sulla montagnetta di San Siro a Milano, che prevede la presenza di atleti A e B della nazionale. Alberto batte tutti e vince, mostrando il pugno alzato e per la prima volta ai fotografi il suo sorriso guascone e soddisfatto. I giornali, sorpresi, si interessano al caso e la Gazzetta dello Sport, poco convinta a trascrivere quello scomodo cognome nel commento del giorno dopo, riporterà semplicemente: un azzurro della B beffa i grandi del parallelo. Ma sarà l'ultima volta. Scrivere e pronunciare la parola tomba presto non sarà più un problema per nessuno. Ecco, stiamo guardando, grandi ricordi, questa è la prima vittoria importante, era l'anno che era in squadra B, qui ecco la finale con Erlacher, lui è uscito dalla prima. Ma tu eri già da... Quel giorno lì me lo sentivo, era un momento che ero forte, vincevo le fisse, le Coppe Europa, e pochi mesi dopo mi hanno preso in squadra A. Il cittadino Alberto non è sempre ben accettato dai compagni di squadra, che nella quasi totalità portano cognomi impronunciabili e sono più a loro agio a parlare il tedesco, non l'italiano. Le matricole e le prese in giro non mancano, ma la futura bomba è esplosiva anche nel carattere, esuberante, a tratti invadente, e non tarderà a farsi voler bene da tutti nell'ambiente. Alla fine del 1985 partecipa alla prima gara di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio, alla quale fanno seguito le gare a Kitzbühel in Austria e ad Are in Svezia, dove per la prima volta incrocia le racchette con Pirmin Zurbriggen, per quello che sarà l'inizio di una serie infinita di sfide con il fantastico atleta svizzero. Il primo podio Alberto lo ottiene sulla pista della Gran Risa in Alta Badia nel 1986, secondo alle spalle di Richard Pramotton. Sono questi risultati che gli permettono di essere selezionato dalla Nazionale A per partecipare ai mondiali del 1987 a Crans-Montana, in Svizzera, dove atleta meno atteso tra tutti, conquista l'unica medaglia per l'Italia, il bronzo in slalom gigante. Alberto è sempre più aggressivo e spavaldo in gara e fuori dalle piste comincia a farsi conoscere per la battuta sempre pronta, lo spirito tipico degli emiliani. È un personaggio completamente nuovo nel circo bianco e alla vigilia delle Olimpiadi di Calgary nel 1988 gli occhi di tutti sono puntati sul 22enne bolognese. Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica, carremo ballando, sul mondo lo sai si scivola, facciamo un fandango, là sotto qualcuno fischierà, balliamo sul conquista di Alberto di due medaglie d'oro a Calgary, in speciale gigante, scoppia la tomba mania, con folle oceaniche al seguito e gli amici del fan club di Sestola sempre in prima fila. In molte scuole dell'Emilia Romagna vengono interrotte le lezioni quando scende lui. La Rai fa ascolti da capogiro, 9 milioni di media ogni volta che la bomba è al cancelletto. Quell'anno il Festival di Sanremo si collega con Calgary, in Canada, per trasmettere la seconda manche olimpica dello slalom speciale, due giorni dopo aver stracciato tutti nel gigante. Il picco di ascolto è di oltre 20 milioni di telespettatori. L'Italia in pratica si ferma per lui. A darne l'annuncio il presentatore, un ex ragazzo prodigio figlio d'arte, Miguel Dominguin Bosé. Non me lo posso più tenere, Alberto Tomba ha vinto! Alberto è uno che la ribalta se la prende tutta. Il suo faccione sorridente buca gli schermi, innamora donne di ogni età, flirta con donne famose e bellissime, tra le quali la Miss Italia Martina Colombari, scherza con tutti e a volte perde il controllo, come quando si scaglia contro un fotografo, il freelance Aldo Martinuzzi, reo di aver messo in circolazione fotografie di Alberto svestito, gettandogli addosso una coppa di cristallo e ferendolo a un dito. Insomma, Alberto è caratterialmente l'esatto opposto di Gustav Töni, l'altro protagonista di oggi, che abbiamo lasciato a Kitzbühel e a quello storico centesimo di secondo alle spalle di Klammer. Archiviata senza remore quella storica discesa libera, Gustav Töni torna a dedicarsi alle specialità a lui più consone. Nel 1975 vince la sua quarta Coppa del Mondo assoluta e nel 1976 alle Olimpiadi di Innsbruck è medaglia d'argento nello slalom speciale. Töni miete successi e medaglie, compresi due ori nei campionati del mondo a St. Moritz nel 74. Ma lo strapotere italiano di quegli ultimi anni comincia a dare segni di cedimento, soprattutto a causa dell'avvento di un giovane svedese, Ingmar Stenmark, destinato a segnare la storia dello sci per i successivi 10 anni, divenendo uno degli sciatori più grandi di sempre. Gustav Töni chiude la sua fantastica serie di 24 vittorie in Coppa del Mondo con la combinata dell'Anenkam del 1977 e appende i fatidici sci al chiodo nel marzo del 1980. Nello stesso anno entra a far parte dello staff tecnico della Nazionale, in attesa di poter aiutare qualche giovane a seguire i suoi solchi sulla neve. Non aspetterà a lungo. Destini incrociati. A A Destini Incrociati, Gustavo Töni, campione leggendario, ma ancora desideroso di dare il suo contributo allo sci italiano, sta per incontrare un giovane campione che, a causa del suo carattere troppo esuberante, sta smarrendo la strada del rigore e della disciplina, necessaria ad ambiti agonistici di massimo livello. Sono due personalità completamente diverse, ma il loro rapporto di reciproco scambio professionale e umano li cambierà per sempre e per la gloria dello sci azzurro. Ma diciamo, con Alberto ho passato dei bellissimi anni, anche non sempre facilissimi, però alla fine diciamo i risultati c'erano e diciamo quello sicuramente tutti si ricordano ancora tutte le sue vittorie. Insomma, e anche a me personalmente fa molto piacere di essere stato uno, di avergli dato una mano per questo. Il successo che porta alla gloria, che porta soldi, fama, privilegi, a volte diviene un boomerang che restituisce anche momenti difficili. Ora Alberto non è più una sorpresa. Gli avversari gli prendono le misure e lui è distratto da molte, troppe cose. Amicizie sorte ovunque e non sempre sincere, l'assedio di giornali e televisioni e la fortuna che gli gira le spalle mettendosi di traverso in un paio di occasioni sotto forma di paletti maligni che restano impigliati tra sci e scarponi. Pirmin Zurbriggen, Marc Girardelli, Paul Accola e molti altri atleti suoi avversari non mollano un centimetro di pista. Il numero uno è lui, ma alle sue spalle si affilano lamine sempre più aggressive. Tomba inizia a perdere colpi. A Weil, nel 1989, non sale sul podio dei campionati mondiali e anche la Coppa del Mondo di specialità sfuma a causa di una serie inconsueta di errori. Alberto è irriconoscibile e qualcuno pone dubbi sul fatto che sia lui il vero erede di Zeno Colò e di Gustav Töni. In realtà, si è di fronte a una crisi tecnico-fisica che ha travolto non solo Tomba, ma tutta una struttura agonistica, la sua direzione, i suoi organismi. La federazione viene accusata di non essere in grado di gestire un simile campione. Il talento e il temperamento di Tomba, che nel frattempo è ingrassato e insolitamente depresso, rischiano di essere compromessi. Bisogna agire velocemente, trovare soluzioni rivolgendosi a chi di sci ne sa davvero e al posto di tante parole ha sempre contrapposto i fatti. È davvero difficile immaginare due persone più diverse di Töni e Alberto Tomba, il quale ormai pesa quasi 100 kg ed è circondato da una corte dei miracoli composta di sfaccendati e vitelloni giocosi che hanno contribuito a incanalarlo sulla via dello smarrimento. Urge un serio lavoro di restauro, che è appunto affidato a Töni. Il dubbio che si affaccia nelle menti di molti è quello relativo all'incompatibilità caratteriale dei due personaggi. Dimenticano che entrambi sono animati da un'unica, immensa passione. Mi sono creato una squadra da me, una squadra composta da proprio atletico, Gustavo, Töni, di poche parole però giuste. Gli occhi azzurri e rassicuranti di Gustavo, il suo sorriso appena accennato ma carico di certezze, finiscono piano piano per cambiare Tomba. L'alto atesino non è mai scomposto, mai aggressivo, non urla ma consiglia, corregge e protegge. Anche dagli assalti delle ragazzine che spesso assediano gli alberghi delle località degli allenamenti. Insegna ad Alberto la cultura del lavoro, l'abnegazione al sacrificio che a volte sconfina nell'ascetismo. Gustav capisce che a quel ragazzone esuberante non si può togliere tutto e comunque di certo non il sorriso. Si fa coinvolgere da lui nei momenti di pausa dal lavoro e si fa trasmettere una gioia di vivere forse mai conosciuta prima. È un rapporto di osmosi caratteriale che giova a entrambi moltissimo e che presto genererà nuovi risultati. La stagione 90-91 vede l'Albertone nazionale tornare ai suoi livelli. La cura Töni comincia a dare i suoi frutti, la dieta, gli allenamenti duri e mirati, il ritorno alla vita d'atleta e soprattutto i consigli preziosi del mito Gustavo riportano l'attenzione del Circo Bianco sulla bomba emiliana. Tomba vince 5 gare in stagione e alla fine vince la Coppa di specialità in gigante. Ai mondiali del 91 le cose vanno meno bene, complice una brutta caduta nel gigante in seconda manche che costa ad Alberto la rottura di due costole. Nulla che possa spaventare i due, che si rimettono a lavoro in estate. E nella stagione successiva Tomba si ripresenta in gran spolvero e torna protagonista della Coppa del Mondo, ottenendo 9 vittorie, 4 secondi posti e 2 terzi posti, che però non gli sono sufficienti per vincere contro il principale avversario, lo svizzero Paul Accola. Il 1992 è anche anno olimpico. I giochi si svolgono nella regione francese della Savoia, in un comune che porta un nome a dir poco profetico per Tomba. Albertville. Da Albertville io giocavo con i numeri, non potevo giocare col nome, Albertville, c'è un motivo, a casa mia non posso tradire, non posso dar male. Il 18 febbraio 1992 si annuncia splendido, luminoso, perfetto. Alle prime luci, accompagnato dal Monsignore Silenzioso, così come la stampa ha ribattezzato Tony, Alberto va a verificare la neve e la pista. La Val d'Isère è da tempo presa d'assalto dai Tomba fan arrivati a migliaia dalla vicinissima Italia. Non c'è posto per dormire e molti lo hanno fatto nei pullman, altri sono partiti nella notte. È quasi come giocare in casa, ma proprio per questo la tensione è alle stelle. Ci pensa a Gustavo, come sempre, a dire le parole giuste e al tempo stesso tenere carico il bolognese. Eppure anche Tony è molto teso, come se in gara ci fosse ancora lui. E se una volta poteva scaricare tutto sulle sue lamine d'oro, ora non può che aspettare e mettere il destino nelle gambe altrui. Alle 10 del mattino, la prima manche. Quello che si ferma dopo il traguardo, tuttavia, non è un Tomba molto contento. È teso, sa che poteva fare di più, ma è difficile accettare l'idea di rischiare tutto già nella prima manche. Accola e Girardelli sono a pochi centesimi da lui, che chiude comunque in testa. Per Gustav va bene così. Ritiene che se il suo atleta avesse fatto meglio nella prima manche, si sarebbe sentito troppo sicuro nella seconda e convince della sua opinione Alberto, che si carica ancora di più. Seconda manche. Arriva con molto anticipo. Ha bisogno di guardare bene dall'alto il panorama della pista, scoprirne con la luce del sole ormai altissimo altri eventuali punti pericolosi. Prova e riprova scarponi, occhiali, sci. Mette tutto a posto. In una giornata simile non si può rischiare nulla. Tocca a lui. Si affaccia dalla porta della casupola e vede l'Italia laggiù in attesa. Un tuffo al cuore, ma si butta subito. E il cronometro scandisce un ritardo di 3 decimi. L'Italia ammutolisce. Qualcuno è già pronto a linciarlo. L'altoparlante scandisce un nuovo ritardo. Invece Tomba accende il turbo. Fa a pezzi Girardelli, Accola, Furuset, Amot. L'oro è suo. 7:30 a tempo da battere. Forza, forza. 4, 5, 6, 6, 98. Vinto, grande campione. La leggenda è la storia dello sci. Alberto Tomba è l'unico nella storia che ha vinto 2 medaglie d'oro in 2 edizioni diverse dei Giochi Olimpici Invernali di Sci Alpino. È una bestia, dice qualcuno. In senso buono, ovviamente. Alberto non riesce a trattenere le lacrime. Poi compie un altro miracolo. Va davanti alle telecamere straniere e, cosa mai avvenuta prima, si mette a parlare in inglese come fosse la sua lingua madre. Tutti gli sono intorno, lo stringono in un abbraccio soffocante. C'è anche Gustav lì da qualche parte, ma lui ha un altro modo di festeggiare. Parlerà con i giornalisti più tardi e dirà molte cose, certo. Non è più il Tony di una volta. 2 parole dette male e via. Alberto è riuscito a trasferirgli una particella del suo essere così smaccatamente emiliano. Ma in quel magico momento, a soli 10 giorni dal suo 41esimo compleanno, è ancora un uomo delle sue montagne e si tiene tutto dentro, malcelando un sorriso di enorme soddisfazione. Ma è più difficile fare al direttore tecnico. L'atleta è molto più facile. La storia di 2 uomini che si sono cambiati a vicenda non finisce quel giorno in Savoia. 2 anni dopo, a Lillehammer, Alberto conquista l'argento in speciale. Ma il capolavoro finale dello strano duo avviene nel 1995, quando Alberto riporta in Italia la Coppa del Mondo Generale 20 anni esatti dopo l'ultimo italiano, che guarda caso è il suo maestro di vita e di sci, Gustavo Tony. Dopo il ritiro, avvenuto a seguito dell'ultima vittoria in Coppa del Mondo a Crans-Montana nel 1998, Alberto Tomba gira per 3 anni l'Europa con il Tomba Tour per lo sviluppo dello sci giovanile. Gira un film, Alex l'Ariete, al fianco di Michel Hunziker, ma capisce che è meglio lasciar perdere. È socio fondatore dell'Associazione per la promozione dell'attività sportiva contro il disagio sociale e naturalmente non scorda ogni tanto di fare la bella vita. Gustav, lasciati gli incarichi federali, torna nelle sue valli, a Trafoi, il suo paese d'origine, per gestire l'albergo di famiglia insieme alla moglie Ingrid e ai figli, luogo che ospita anche la collezione di tutti i suoi trofei. Alla soglia dei 60 anni ha avuto tutto. e ora si gode la famiglia in splendida pace. Se c'è una cosa che i due non hanno certamente smesso di fare, è sciare. È lecito pensare che qualche volta lo facciano insieme. Non li riprende più la televisione, non li aspettano più le folle a fine gara. Ma immaginarli disegnare curve perfette, uno fianco all'altro, mette brividi freddi, come avere sulla schiena silenziosa e lieve la neve. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Altri destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.